cioè quando muore qualcuno, il magistrato di turno deve immediatamente uscire sul luogo dove è successo. Nel caso di suo padre non è uscito nessuno, nessun magistrato. Chi era morto? Un ferroviere, un anarchico. Quindi il giudice D'Ambrosio è il primo magistrato che esce sul luogo dove è morto mio padre e fa i rilevamenti nel cortile della questura dopo 3 anni dalla morte. E fa delle prove con un manichino che riproduce la fisionomia, cioè le sembianze, quindi la statura, la corporatura di mio padre, fa delle prove di caduta dalla finestra. Il giudice D'Ambrosio, che poi proseguirà una carriera sia in magistratura che all'interno del Partito Comunista, che poi diventerà senatore, eccetera, archivia, escludendo il suicidio, escludendo l'omicidio, attribuendo la morte di mio padre a un probabile malore, cioè dopo 3 giorni di maltrattamento, privato di cibo e di sonno, presumibilmente Giuseppe Pinelli si è sentito male, quindi avrebbe dovuto accasciarsi, invece è precipitato da una finestra. Quindi per il giudice D'Ambrosio c'è stata un'alterazione del centro di equilibrio che nella poi vulgata popolare è diventato un malore attivo, unico caso al mondo di malore attivo. Definizione che non troviamo in nessun manuale di médecine légale. Il y en a pas sur 100 et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne on ne les comprend pas, des anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignets et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent, la plupart fils de rien. Ou bien fils de si peu, on ne les voit jamais que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi? Avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang versé. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue, les anarchistes. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Il y en a pas sur 100 et pourtant ils existent, et qu'ils se tiennent bien bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes. Finisce la possibilità di qualsiasi altra iniziativa a livello legale con questa sentenza di D'Ambrosio. L'unico processo in cui si parlerà della morte di mio padre è quello intentato dal commissario Calabresi contro un gruppo dell'estrema sinistra che si chiamava Lotta Continua, che aveva un giornale. Lotta Continua farà una campagna violentissima come contro Calabresi, indicandolo come l'assassino di Giuseppe Pinelli. Praticamente tutti presenti in questura quella notte